antichi inni d'amore, dee e sovrani. La linea di demarcazione tra preistoria e storia è la parola scritta, ma è una linea confusa, perché spesso alcune delle più importanti notizie sulle società antiche di cui possediamo già dei documenti scritti provengono dagli scavi archeologici. Per esempio, se leggiamo l'Antico Testamento, lo scritto più importante dell'antica Palestina, abbiamo della religione del tempo un'impressione molto diversa da quella che traiamo dai ritrovamenti archeologici. Se l'Antico Testamento parla di Yahweh come dell'unico Dio degli ebrei, i reperti archeologici dimostrano che anche altre divinità maschili, quali El, Baal e Tammuz, venivano venerate. E se raramente l'Antico Testamento menziona la Dea, e allora soltanto nelle diatribe contro il regresso al culto della Regina del Cielo, la dea palestinese Ishtar o Astarte era probabilmente ancora la divinità più amata e venerata, come lo storico delle religioni Raphael Patai ripetutamente dimostra nel libro The Hebrew Goddess. Inoltre, il matrimonio sacro con Tammuz o Baal, o addirittura con Yahweh, continuava a essere celebrato in riti sessuali, come indirettamente confermano le diatribe dell'Antico Testamento contro le figlie di Sion che si prostituiscono. Insomma, i documenti scritti non raccontano tutta la storia, ma diventano utili se la loro lettura va di pari passo con l'esame dei reperti archeologici coevi e ancora più antichi. La civiltà occidentale più antica di cui possediamo molti scritti già decifrati è quella sumera, localizzata all'interno di Sumer, regione della Mesopotamia meridionale, corrispondente pressappoco al terreno dell'odierno Iraq meridionale, in cui, a cominciare dal 3200 a.C. circa, emersero alcune potenti città-stato. I Sumeri incidevano i loro scritti in caratteri cuneiformi su tavolette di pietra e pertanto molto è sopravvissuto all'usura del tempo. Per la maggior parte, le migliaia di tavolette sumere rinvenute negli scavi trattano questioni economiche, legali e amministrative. Ma negli ultimi 50 anni i sumerologi hanno collezionato e combinato parecchi frammenti di tavolette sparse fra musei europei e americani e sono riusciti quindi a ricostruire testi letterari per un totale di oltre 30.000 righe. Tra questi testi sumeri, forse i più rivelatori sono gli inni alla dea Inanna, regina del cielo e della terra, e in particolare quei passi poetici e spesso erotici dedicati al suo matrimonio sacro. Nel 1983 il famoso sumerologo Samuel Noah Kramer e la studiosa di usanze popolari Diane Wolkstein ricostruirono un ciclo narrativo su Inanna, comprendente sette di questi inni. Il ciclo inizia con Inanna che offre a Sumer i doni della civiltà. L'Akme è l'unione sacra di Inanna con il dio re pastore Dumuzi e termina con la discesa e il ritorno dagli inferi, morte e rinascita di Inanna, di Dumuzi e di sua sorella Gestinanna. Come scrive Kramer, Inanna era la divinità più amata e venerata dai Sumeri, la dea dell'amore e della procreazione. Ogni anno, durante le protratte celebrazioni del nuovo anno, il matrimonio sacro di Inanna con il monarca sumero regnante veniva rappresentato da una somma sacerdotessa nelle vesti della dea. Gli inni di Inanna furono scritti, si valuta, intorno al 2000 a.C. Tuttavia, come nota Kramer, si rifanno a tradizioni orali molto più antiche. Considerati dalla prospettiva del materiale archeologico che abbiamo esaminato, elementi fondamentali di queste tradizioni risalgono indubbiamente alle civiltà neolitiche che fiorirono intorno al 7500-3500 a.C. e forse persino al Paleolitico, all'incirca 20.000-12.000 a.C. Dunque, negli inni di Inanna troviamo uno strano miscuglio. Ci sono elementi di una precedente mitologia sull'unione sessuale di femmine e maschio, in un rito estatico che celebra la vita, ma anche tracce di una mitologia più tarda che concerne prevalentemente sovrani e dei, il loro diritto divino di governare e le loro battaglie per conquistare e dominare. Nella civiltà sumera, come nella maggior parte delle società preistoriche, spiega Kramer, in origine il potere politico era nelle mani dei cittadini liberi, ma con l'intensificarsi delle pressioni delle popolazioni barbariche a Oriente e Occidente, la leadership militare divenne una necessità urgente e il re, o meglio il sumero Nugal, grande uomo, venne alla ribalta. Inoltre, poiché i sumeri si spostavano verso un ordine sociale sul modello della dominanza, il governo di re forti fu legittimato da miti religiosi, in cui si diceva che il loro potere derivava dalla dea medesima, attraverso l'antica istituzione del matrimonio sacro. Dunque, come il biblico Cantico dei Cantici, gli inni di Inanna contengono importanti tracce di un'epoca più antica, quando, ben lungi dall'essere un oggetto sessuale per il maschio, la donna era vista come la fonte di quella che nelle sacre scritture indiane si chiama Kundalini, la potente energia divina da cui hanno origine vita e beatitudine. Ma mostrano pure che questo antico rito cominciava a essere cooptato per adattarsi alle necessità dell'ordine sociale dominato dal maschio, fortemente gerarchizzato e violento, che, come vedremo gradualmente, sostituì le culture preistoriche che veneravano la dea ed erano orientate sul modello della partnership, mediante l'ascesa di capitani pastori forti e poi dei sovrani. Proprio delle nozze di Inanna con un siffatto re, il re dio pastore Dumuzi, parlano le tavolette sumere, da cui apprendiamo inoltre che a tutta prima Inanna non intendeva accettarlo come sposo, voleva invece sposare un agricoltore. Il pastore, non voglio sposare il pastore. Veste abiti grossolani, la sua lana è ruvida. Sposerò l'agricoltore. L'agricoltore coltiva il lino per le mie vesti, l'agricoltore coltiva l'orzo per la mia tavola. Il fatto che Inanna voglia sposare un agricoltore invece che un pastore la dice lunga, informa non soltanto sulla resistenza, specie da parte delle donne, a coloro che si dedicano alla pastorizia e al loro modo di vita rude e ripugnante, ma anche che il matrimonio sacro che l'inno descrive pittorescamente precede le invasioni dei pastori. Il fatto che secondo gli inni Dumuzi è stato prescelto come sposo dal fratello di Inanna rivela le realtà storiche del tempo. Negli inni si dice che dopo aver opposto resistenza alle nozze con Dumuzi, Inanna lo incontra e subito se ne innamora. Ma invece di far la solita parte della sposa timida e innocente, che ci hanno insegnato a rispettare come femmina virtuosa, Inanna, con gioia addirittura tumultuosamente, anticipa la loro unione con un linguaggio che non potrebbe essere più apertamente sessuale. La mia vulva, il corno, il battello del cielo, è ricolmo di brame impaziente come la giovane luna, annuncia prima di porre a Domuzio una domanda schietta, seppur ravvolta nel simbolismo che si rifà all'agricoltura. Chiarirà la mia vulva, chiarirà il campo in alto, chiarirà il mio umido terreno. Grande signora, risponde Dumuzi, il re arerà la vostra vulva. Io, Dumuzi il re, arerò la vostra vulva. Che questo pastore sia il re riflette ovviamente la nuova realtà storica. Comunque quell'inno, come il Cantico dei Cantici, è in linea con le più antiche tradizioni paleolitiche e neolitiche, quando il matrimonio sacro era associato alla crescita di piante in primavera dal ventre della dea. Accettando Dumuzi, Inanna gli dice: «Ara dunque la mia vulva, uomo del mio cuore, ara la mia vulva». E apprendiamo poi dall'inno che in grembo al re stava il cedro levato, piante crescevano alte al loro lato, grani crescevano alti al loro lato, i giardini fiorivano lussureggianti. Ancora una volta, in un linguaggio che, come l'arte del Paleolitico e del Neolitico, combina immagini sessuali con immagini della feconda bellezza della terra, Inanna continua. Lui è spuntato, lui è germogliato, lui è lattuga piantata presso l'acqua. Lui è colui che il mio ventre soprattutto ama, colui che impetuosamente mi accarezza l'ombelico, mi accarezza le morbide cosce. Lui è colui che il mio ventre soprattutto ama. Lui è lattuga piantata presso l'acqua. Dumuzi risponde con parole che non lasciano adito a dubbi sul fatto che questo rito sessuale risale alle culture agrarie. O signora, il tuo seno è il tuo campo. Inanna, il tuo seno è il tuo campo. Il tuo ampio campo elargisce piante. Il tuo ampio campo elargisce grano. Acqua scorre dall'alto per il tuo servitore. La preparazione al rito cui partecipano altri membri della comunità, in altri termini il suo significato simbolico e pubblico, si riflette nell'ordine impartito da Inanna affinché siano preparati il letto della dignità di re e il letto della dignità di regina. Sia preparato il letto che allieta il cuore, sia preparato il letto che addolcisce i lombi, sia preparato il letto della dignità di re, sia preparato il letto della dignità di regina, sia preparato il letto regale. Se in questo passaggio ritroviamo la cooptazione del matrimonio sacro per istituzionalizzare il regno di un re pastore, pure il linguaggio erotico di questa antica epica dell'unione sacra resta talvolta di un'estrema tenerezza. Non parla di un sesso casuale o impersonale, e tantomeno violento, parla piuttosto della gioia di stare mano nella mano e cuore a cuore, cioè dei piaceri dell'amore sessuale tra uomo e donna. Lui mise la mano nella mano di lei, lui mise la mano sul cuore di lei. Dolce è il sonno mano nella mano, più dolce è il sonno cuore a cuore. Come le divinità femminili del Neolitico e del Paleolitico, Inanna resta la dea dei tempi antichi, colei che ci offre il grano che mangiamo e l'acqua che beviamo, e il dono della vita medesima. Anche Dumuzi resta il dio toro, il principio della potenza maschile. Inanna lo chiama toro selvaggio e alto sacerdote, mentre osserva che è pronto per i sacri lombi. Inoltre, come l'arte paleolitica e neolitica, il ciclo di Inanna parla non solo di sesso, ma anche di morte e rinascita. In particolare parla della morte periodica della natura nella stagione sterile dell'anno, in cui le piante avvizziscono e smettono di crescere. Questo aspetto del ciclo naturale degli inni di Inanna è simboleggiato dalla discesa di Inanna e di Dumuzi e di sua sorella Gezzinanna, agli inferi, da cui tornano ogni anno, dunque ogni anno rinascono. Vediamo pertanto che in questi testi mesopotamici, come nelle immagini da noi esaminate del Paleolitico e del Neolitico, la sacra unione sessuale tra donna e uomo e quella tra energie sessuali divine femminili e maschili non erano isolate, rientravano in un più ampio ciclo cosmico, di cui il piacere erotico era parte integrante. Un ciclo che inizia con il sesso e la nascita e termina con la morte e la rigenerazione. In questo ciclo cosmico, il sesso ancora simboleggia l'energia divina che fa girare il mondo, il potere erotico della dea, come dice l'inno, quale signora della vegetazione e regina del cielo e della terra, regina di tutto l'universo. La dea medesima sacralizza l'amore, la vita e il piacere, con gioia, facendoli scorrere dalla dolcezza dei suoi sacri lombi. Come canta l'inno. Sono questi sacri lombi che ritroviamo raffigurati sulla piastra in terracotta detta Amanti che si abbracciano sul letto, citata nel capitolo 1, che risale all'incirca 4.000 anni fa. L'incisione mostra una donna e un uomo, probabilmente in anni Dumuzi, stretti in un erotico amplesso. Lui tiene la mano sul fianco di lei, un po' più in su della vulva. Lei con un braccio gli cinge la vita. E con l'altra solleva un seno come se essendo la dea o la sua rappresentante, gli offrisse i doni della natura, dell'amore, della vita e del piacere che il suo corpo rappresenta. Per via della sua natura erotica, molti oggi la giudicherebbero oscena, mentre come deduciamo dall'arte del Paleolitico, del Neolitico e dal ciclo di Inanna, era un'opera di arte sacra. A molti di noi ciò può sembrare strano, perfino sacrilego. Ma si trova un certo equilibrio che si riflette sul fatto che le nostre immagini sacre, così fortemente incentrate sulla sofferenza, il dolore e la morte, sarebbero probabilmente parse strane, persino sacrileghe, ai nostri antenati del Paleolitico e del Neolitico. Si ristabilisce un maggiore equilibrio ancora se si riflette su quel che queste popolazioni avrebbero pensato della nostra pornografia. Infatti, a persone che consideravano il sesso un atto sacro di comunione con la natura e con l'altro, le nostre immagini sessuali di uomini che umiliano, sviliscono, mutilano, schiavizzano e arrivano persino a uccidere delle donne in nome del piacere sessuale, sarebbero risultate affatto incomprensibili e decisamente folli. E forse sì, si sarebbero chieste, come molte di noi, come avevano potuto far presa idee tanto perverse. Una questione che continueremo ad approfondire nel viaggio di riscoperta della storia sessual-culturale della civiltà occidentale. Capitolo 4. Sesso e civiltà. Le radici arcaiche della cultura occidentale. Com'erano le società che crearono le immagini che sacralizzavano il corpo femminile, l'atto di dare la vita e l'amplesso? Che cosa ci insegnano queste società durante migliaia di anni che ci sia d'aiuto nella nostra lotta per una visione del mondo fondamentalmente contro il piacere e contro la donna? Che cosa ha prodotto quelle visioni del sesso e della spiritualità tanto diverse da quanto ci è stato insegnato? Fino a tempi molto recenti prevaleva l'opinione che la società umana fu sempre, e dunque sempre sarà, bellicosa e caratterizzata dal predominio maschile, ovvero che se mai nella nostra preistoria si realizzò qualcosa di diverso, era talmente primitivo da non meritarsi la minima attenzione. Non sorprende quindi la difficoltà che tuttora incontrano molti archeologi di fronte ai dati da cui si evince che le società neolitiche erano molto più avanzate di quanto non si sia pensato. Ne sorprende che spesso liquidino come mera interpretazione tutto quanto contraddice la loro interpretazione dei reperti preistorici. Come sottolinea lo storico della scienza Thomas Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions, la struttura delle rivelazioni scientifiche, ai cambiamenti delle verità scientifiche spesso corrispondono cambiamenti della visione o paradigma del mondo. Quando gli studiosi cominciano a vedere il mondo in modi diversi, cominciano anche a interpretare in modo diverso quello che vedono. E quando le nuove osservazioni non rientrano nella vecchia visione o paradigma del mondo, allora non di rado si scatena una lotta feroce sulla natura della realtà. E quanti detengono il potere mettono a tacere, almeno per qualche tempo, le nuove interpretazioni non conformi alle loro. La violenza di questa lotta è dimostrata dal processo a Galileo, sfuggito di misura al rogo a cui lo condannava l'Inquisizione per le sue convinzioni non conformi al paradigma religioso. Quanti oggi detengono il potere di definire la realtà non hanno più a loro disposizione questi strumenti letali, anche se la lotta continua. Lo si può constatare nell'attuale conflitto tra coloro che ancora si aggrappano a una visione invecchiata della preistoria e quel numero in costante aumento di archeologi, linguisti, geografi, studiosi dell'evoluzione, sociologi e storici delle religioni, dell'arte e della mitologia, che cercano oggi di ricostruire un quadro molto diverso dell'evoluzione culturale in Occidente. L'archeologia moderna e i miti antichi. Il calice e la spada esplora questo nuovo quadro del nostro passato e le relative implicazioni per il nostro presente e il nostro futuro. Qui mi limiterò a esporlo a grandi linee, concentrandomi su tre scoperte chiave e le loro implicazioni riguardo a sesso e spiritualità. La prima è che i nuovi ritrovamenti archeologici, assieme alle reinterpretazioni dei reperti di precedenti scavi, confortano la tesi che nella nostra preistoria si svilupparono società più pacifiche. Negli scavi condotti negli insediamenti neolitici europei che avevano tra loro rapporti commerciali regolari e contatti di vario genere, sono state rinvenute poche tracce di distruzione dovute a guerre o di fortificazioni. Inoltre, nella ricca arte del Neolitico si nota un'assenza, per noi sorprendente, di scene di uomini che si uccidono in lotte eroiche o di uomini che violentano delle donne. In secondo luogo, si è scoperto che in quelle società non si verificavano le grandi ingiustizie che hanno caratterizzato, come ci è stato insegnato, tutte le civiltà antiche. Le dimensioni delle case, la natura di quanto in esse rinvenuto, i doni funerari deposti nelle tombe, indicano una struttura sociale più egualitaria. Come scrive Mellar, seppur esistevano differenze di status e di ricchezza, come si può dedurre dai doni più ricchi ed elaborati, che non mancano di accompagnare alcuni defunti, non erano comunque drastiche. Un terzo aspetto fondamentale di queste prime culle della civiltà occidentale è la mancanza di qualsiasi prova evidente della subordinazione delle donne agli uomini. Da molti segni si deduce che le donne erano specializzate in alcune delle arti più importanti dell'epoca: ceramica, tessitura, creazione di manufatti e oggetti d'arte rituali. Bisogna aggiungere che dall'arte, dai doni funerari e dai modelli dei templi si evince che le donne erano sacerdotesse che ricoprivano importanti cariche religiose. Per la verità, come scrive Gimbutas, alcune sepolture della vecchia Europa indicano che le donne svolgevano ruoli religiosi più importanti di quelli degli uomini. Ma l'autrice sottolinea anche che il fatto che le donne avessero ruoli tanto importanti nella vita della vecchia Europa non significa che a essere oppressi fossero gli uomini invece che le donne. Comunque, ancora di recente gli studiosi nel riconoscere l'esistenza di tali società parlavano di matriarcato, perpetuando così l'idea che se in una società gli uomini non dominano sulle donne, patriarcato, allora in quella società saranno le donne a dominare sugli uomini. Ecco perché nel mio lavoro ho dovuto trovare parole nuove per descrivere la configurazione essenziale di queste società arcaiche. Ho optato per il termine partnership perché è conosciuto e denota reciprocità. Ho coniato inoltre il termine gilania, per rispondere al bisogno di un'alternativa specifica di genere sia al patriarcato sia al matriarcato. Il fatto che mi sia trovata nella necessità di introdurre queste parole nuove la dice lunga sulla difficoltà con cui ci si scontra per affrancarsi dal vecchio paradigma della dominanza. Dimostra che perfino nelle nostre lingue, la maggior parte delle quali fu portata dai nomadi invasori che incontreremo nel prossimo capitolo, sono servite a mantenere salda la convinzione che non esista un'alternativa al modello della dominanza nell'organizzazione sociale, perché così vanno le cose. La cosa curiosa che mi è diventata chiara soltanto quando ho cominciato a cambiare la mia visione del mondo è che da tempo abbiamo sotto gli occhi indizi, presenti nei miti occidentali più noti, di un tipo di organizzazione sociale molto diverso. Per esempio, nella Bibbia leggiamo di un giardino in cui la donna e l'uomo vivevano in armonia tra loro e con la natura, prima che una divinità maschile decretasse a un certo punto la sudditanza eterna della donna. L'altrettanto famosa storia di Caino e Abele ci informa che non sempre il fratello uccideva il fratello. È questo il messaggio di Esiodo, il poeta della Grecia antica, che narra di una razza aurea che viveva in tranquillità e pace finché una razza inferiore non portò il suddio della guerra. Alla luce di quanto apprendiamo ora dall'archeologia, è indubbio che storie del genere si basano su memorie popolari di un'epoca più pacifica, improntata alla partnership. Peraltro, è pure indubbio che storie siffatte furono abbellite e idealizzate passando di generazione in generazione. E così, se il racconto biblico parla di un paradiso perduto, è il più antico popolo, e il più antico popolo veniva definito razza aurea, ciò non era perché era puro e perfetto, come nei tempi antichi era considerato l'oro, ma piuttosto perché quanto si verificò poi era tanto più vile e brutale. Non è realistico pensare che quelle remote epoche fossero libere dalla violenza o dall'oppressione, dalla crudeltà o dall'insensibilità. Né è realistico pensare che non esistessero gerarchie o privilegi di alcun genere. Ma il punto, ed è un punto critico, è che violenza, crudeltà, predominio, oppressione non dovevano in quelle società essere idealizzate o istituzionalizzate al fine di mantenere rigide scale gerarchiche di dominanza e lo sfruttamento. Di conseguenza, la sessualità non doveva essere necessariamente repressa o assimilata al predominio o alla sottomissione. Il naturale legame di piacere tra uomini e donne non doveva essere artificialmente reciso, né gli uomini dovevano essere sistematicamente condizionati ad assimilare l'identità virile al predominio e alla conquista. Arte, vita e sesso nella preistoria. Come abbiamo visto, l'arte presente nelle società della nostra preistoria, che privilegia nel modello della partnership, non celebrava il potere di dominare e distruggere, simboleggiato dalla spada. In realtà si concentrava maggiormente sul potere di dare, alimentare e illuminare la vita, espresso simbolicamente fin dalla più remota antichità dal calice, il Santo Graal. Ancora più specificatamente, era un'arte che non idealizzava la violenza sessuale. Come gran parte dell'arte occidentale fino ai tempi moderni, l'arte preistorica si occupa prevalentemente di figure mitiche o religiose e di importanti riti e rituali. Peraltro, la scelta dei personaggi, il modo in cui vengono rappresentati e i rapporti che li uniscono ci dicono molto sui valori e le credenze dei nostri antenati e sui loro atteggiamenti nei confronti del corpo umano, delle donne, degli uomini e del sesso. Inoltre, questi personaggi forniscono preziose informazioni sull'esistenza quotidiana della gente, sulle acconciature e gli abiti alla moda, come sugli strumenti musicali che si suonavano, su quali divinità portavano armi e se erano femminili o maschili. Ovviamente dobbiamo guardare assieme all'arte altre tessere del puzzle preistorico, ossia i resti rinvenuti negli insediamenti, compresi gli edifici e quanto contenevano, comprese le tombe e quanto contenevano. Ma se considerata nel contesto di altri ritrovamenti archeologici, nonché dei miti sul lontano tempo più pacifico ed egualitario, l'assenza di scene di stupro e di assassinio nell'arte di queste società arcaiche è un indizio importante del carattere particolare che le governava. Se è vero che la documentazione archeologica presenta delle lacune, disponiamo solamente dei dati riguardanti i siti scoperti e in cui sono stati condotti gli scavi, se non esiste una perfetta conformità fra la conoscenza dell'arte, degli edifici, dei cimiteri e delle offerte funebri, possiamo quantomeno farci un'idea della vita durante il Neolitico e l'età del bronzo. Per esempio, i templi in miniatura della vecchia Europa ci parlano degli atteggiamenti prevalenti nel Neolitico nei confronti di attività che nelle società preindustriali contemporanee vengono di solito classificate come lavoro femminile, dalla filatura alla tessitura, dalla macina del grano per ottenere la farina alla cottura del pane. Come vediamo dalle numerose figure femminili, dai crogioli, dai forni e dai telai presenti in questi modellini, queste erano alcune delle attività svolte dalle donne che fungevano da sacerdotesse nelle società neolitiche. E il fatto stesso che forni, ceramiche, macine e telai fossero rappresentati di frequente dimostra che erano attività tenute in gran conto, così come le successive rappresentazioni di armi e guerrieri indicano che le attività militari erano tenute in gran considerazione. L'arte neolitica ci informa inoltre ampiamente su ciò che quelle popolazioni consideravano importante. Non solamente il sesso, la nascita e la morte, ma tutti i cicli naturali, dai ritmi del sole e della luna al ritmo delle stagioni. È per certo un'arte che rende onore ai poteri creativi della natura, mediante immagini sessuali o connesse alla nascita, immagini di animali e piante, o mitiche figure antropomorfe che erano molto verosimilmente protagoniste di riti diffusi. Un tratto interessante di queste figure mitiche è che raramente sono mostruose o demoniache, come diventano dopo il passaggio a una società improntata alla dominanza. Brillano per la loro assenza le immagini che rappresentano eroi violenti ossessionati dall'uccisione di mostri vari, tanto frequenti invece in epoche successive. Inoltre, nulla sta a indicare l'esistenza di un sistema di credenze basato sull'idea che il male, le tenebre, il corpo, la donna e la natura devono essere conquistati e dominati. Invece di mostrare uomini che sottomettono forze naturali pericolose e selvagge, l'arte del tempo si sofferma sui miti che parlano delle interconnessioni fra tutti gli aspetti della vita, come in alcune figure fantastiche, uomo e animale insieme, e sui riti per sintonizzarsi con i ritmi ciclici della natura. Questo è molto importante, in quanto gli studiosi hanno parlato dei riti preistorici prevalentemente in termini di controllo. Infatti, di fronte a segni che mostrano come i nostri antenati del Neolitico e dell'età del bronzo celebravano il sesso e i riti religiosi, gli studiosi hanno di solito descritto tali riti come tentativi di controllare la natura effettuati da popolazioni primitive e superstiziose, ignare delle realtà scientifiche. Ma i riti sessuali incentrati sulle forze dell'universo che generano la vita, spesso esplicitamente sessuali nell'iconografia preistorica, possono altrettanto ragionevolmente essere interpretati come tentativi di invocare i poteri benefici o le energie di queste forze piuttosto che come tentativi per controllarle. Ovvero, secondo le idee del biologo Rupert Sheldrake e del teorico dell'evoluzione Erwin Laszlo, su quelli che chiamano campi morfogenetici, potrebbero essere considerati tentativi di unirsi alle energie occulte benefiche, nel linguaggio animistico gli spiriti benefici, o di evitare le energie o spiriti negative e distruttive, allineandosi con quelle positive creative. Questo non significa che i nostri antenati preistorici non desiderassero influenzare i poteri che governavano l'universo per ottenere protezione e favore, come molti oggi sperano ancora di fare con la preghiera e le cerimonie religiose. Ma sebbene gli archeologi tendano a parlare dei riti sessuali preistorici solamente come di tentativi di controllare con la magia la fertilità dei raccolti e o la fecondità degli animali, potenziali vittime dei cacciatori, controllo e influenza non sono la stessa cosa. Quanto alla sprezzante etichetta di primitivo e superstizioso, il fatto è che il sesso è magico, e non solo in un senso superstizioso, ma anche in quello che oggi definiremo un senso scientifico. Come queste popolazioni osservarono, il sesso è necessario se la vita deve continuare. Ecco perché non era poi irrazionale considerare sesso e nascita come manifestazioni sacre dei poteri del cosmo di dare vita e piacere. Ancora una volta, ci troviamo di fronte al problema della proiezione di atteggiamenti e sistemi di credenze successivi su contesti più antichi. Per cominciare, secondo me, non si può presumere che quelle popolazioni definissero il sacro come noi hanno insegnato a definirlo. Inoltre, sebbene il sesso avesse una parte importante nei miti e nei riti preistorici, forse non si trattava di una questione grave, come ci ha in genere insegnato a considerare la religione, connessa con la paura del castigo divino per i nostri peccati e non a qualcosa di piacevole. È un modo completamente diverso di considerare la sessualità e la spiritualità. Non nega la dimensione spirituale del piacere, e in particolare del piacere statico, quale esperienza di integrità della persona, di unione con l'altro e con l'universo. Desidero ancora una volta porre in rilievo, come Gimbutas, che l'importanza data da quest'arte al potere rigenerativo femminile non va confusa con una struttura gerarchica in cui le donne governano con la forza al posto degli uomini. Se, come pare, le donne hanno svolto un ruolo prevalente nei riti e nei miti religiosi, nulla indica che gli uomini venissero oppressi. Piuttosto, per riprendere ancora una volta le parole di Gimbutas, paiono società presso cui i sessi occupano più o meno posizioni egualitarie. Società che Gimbutas descrive usando il mio termine gilaniche. Più spesso Gimbutas ricorre ai termini matrista e matrifocale, incentrata sulla madre, per descrivere l'organizzazione religiosa e familiare di queste società più pacifiche ed egualitarie. E per la verità è provato che solamente pochi secoli or sono, tra i Baschi, l'unico popolo in Europa di lingua non indoeuropea, la cui cultura è indigena e risale a oltre 10.000 anni fa, le madri ancora svolgevano importanti ruoli religiosi, economici e politici, e i figli portavano il nome della madre. Tuttavia, se come crede Gimbutas, nelle società preistoriche caratterizzate dal culto della dea, i vincoli tra madre e figlio erano di primaria importanza e la discendenza era matrilineare e non patrilineare, da ciò non si deve concludere che i figli fossero considerati proprietà delle singole donne. In seguito invece furono considerati proprietà di soli uomini. Gimbutas parla dunque di quello che chiama un clan matrista con principi collettivistici e suggerisce l'ipotesi che i bambini appartenessero all'intero clan o tribù. Pertanto, la comunità si faceva carico della cura e del benessere dei piccoli, e non il privato soltanto. Ed è questo un atteggiamento che sta ora riemergendo, specie nei cosiddetti welfare states scandinavi, più orientati sul modello della partnership, in cui la cura del bambino è una questione sociale e non unicamente individuale. Similmente, e di nuovo in netto contrasto con tutto ciò a cui siamo abituati, la capacità della donna di dare la vita non era considerata in quelle società preistoriche una proprietà maschile, ma un sacro dono della dea, madre di tutto ciò che vive. Come già osservato, questo concetto sacro della procreazione si riflette vividamente nelle raffigurazioni neolitiche della dea. Desidero tuttavia sottolineare che le immagini preistoriche della gravidanza non possono essere comparate all'attuale ossessione fondamentalista per il feto o il bambino non nato. L'enfasi in quest'arte preistorica non è posta sulla donna come contenitore, quanto piuttosto sul potere sessuale della donna, un potere che per i nostri antenati preistorici era naturale e spirituale.